il carburatore, no? Che gli ho scaricato la benzina. Cosa è successo? Che praticamente quando ho levato il capo là sotto c'era acqua dentro. Acqua nella benzina? Il carburatore. Se c'è nel carburatore c'è acqua nella benzina. Infatti mi ha giubugata di sé, questa benzina arriva a un bucciano, ma non passi. Io ad Ambrì avessi per la Eva, Ruta. Non lo so. Non mi dai sassi, non ti comprende. Che commissari, lasciatemi da qua. Ma non si sente. Dice che ne vanno a ver mostre. se vuoi entrare entra, se no se ne sta lì. Se no dici la verità di dove sei, è buono, è inutile che stai al monte, alla carburante, bomba. Non ci credo, prima la Pilotti, a cui l'avrei sentito, basta l'avrei sentito, anche se ha carburanti. Allora Monti, non vuoi, l'intervisore Anturi, il maestrano, ma comunque. Fa, qualcuno fa, tu saluta. Guarda, magari io no, ma se Claudio attacca quello grande, l'amplificatore, io sono più sicuro che la tua parte ti crepa. Ascolti. Vabbè, lascia che entri Claudio, poi devi usare il TL922, col Kenwood, e lui butti qua di globo. Perché siamo qua, lui non passa. Se dice una ti creppa, la scommessa, aiuto. Lui vuole passare, ma poi no. Cioè, se siamo sulla strada della pace, non devo andare là, perché non si va a passare. Grazie. si attacca, non lo so, ma era provare, si attacca a Claudio, da lì è come se, ma ti posso dire, poi viene via 400, 500, non lo so, secondo me non passa, poi. Secondo me invece era, facendo le antenne piccoline, io penso di là, mi lascio provare. Ma tu eri poco qua, basso basso? No, ragazzi, stavo ascoltando, poi ho sentito la sua della prova che è entrata. Secondo me non voglio provare, ma secondo me non è entrata. Mettimenti, sono vicino, sono piccolino, non lo so, secondo me era. Ma non so, mi può seccare, se dovesse capitare la facciamo fare la prova. E poi si vedrà, c'è qualcuno che è in propagazione, avanti chi è? Buonasera, qua a Nord Sardegna. Avanti. Buonasera. Chi sei, scusa? Avanti sui canali 10. Vabbè, riprendi per fa. Stavo dicendo, volevo farti notare che comunque non c'è soltanto nei numeri di queste portanti, non c'è il numero soltanto dei fatti, ma c'è anche un'altra numerazione da fare, che è così nella vicinanza, devi calcolare che per ogni fatti che emana in vicinanza con specialmente così, devi contare che so 365 metri in lunghezza all'onda per ogni parte, e se lo troppo vicino, diciamo che se tu li calcoli per gli 11 metri che è dell'onda, sono 365 metri in diciamo in 15-20 metri, e calcoli che potrebbe essere anche, posso dire, calcolati come che siano 100 watt per ogni watt. Per ogni watt, ma come che siano 100 watt per ogni watt emanato, mi capisci? Beh, ma di distanza di quanto? In distanza di parlo di 15-20 metri, una lunghezza d'onda è quel vale diviso 11 volte 365, quindi nella lunghezza d'onda ogni watt corrisponde a 365 metri di ampiezza d'onda, ed ecco che per una legge di numeri puoi dare anche fino a, che ne so, a 1000 watt, ma per una legge di numeri dovrebbe essere più forte quello che c'hai a pochi metri, capito? Non lo so, comunque. Però c'è un però, che la tua, anche se ci sono ostacoli verso Claudio, ostacoli magari, insomma, colpa tua, ecco, perché c'è una terra bassa, però da Claudio verso di te, essendo in alto, la zona alta, ti prende in pieno, ostacoli tu non ne ha verso di te, ma tu verso di lui sì, perché c'è una terra bassa. E invece da te al tuo figlio, praticamente c'è questo palazzo dove abitate che mi separa. Hai capito cosa voglio dire per fare? Anche se siete vicini, però mi separa. Sì, ma le onde, soprattutto questo tipo di onde, nell'ampiezza della lunghezza di quanto dista un'antenna dall'altro, si sbalzano una con l'altra, si sbalzano. Mentre invece nella vicinanza vanno dritte, non sbalzano per niente, capito? È proprio la vicinanza. Perché satura? Per satura per quello, perché l'onda va dritta. Mentre invece la lontananza fra me e Claudio sbalzano perché trovano anche l'ostacolo per forza. Può trovare qualsiasi cosa che la fa sbalzare per forza. Ecco che spetta l'onda. Quindi tu nel dare più watt, la parte che più watt dai è che le onde vengono sfasate per forza, perché sono sfasate quando tu dai watt di prepotenza. Ecco che se in lontananza vanno sfasate, mentre nella vicinanza entrano di forza. Gappa. Oppure magari in direttiva, vedi, una direttiva, allora sì. Non lo so comunque, non lo so. Eppure se capita, la facciamo fare la prova a Claudio, vediamo un po'. Non lo so, guarda, mano sul fuoco, non ce la metto, però comunque direttiva sicuro perché sta puntando addosso, ti butta a 600 watt, fai pure 800 e tu castagni da tuo figliolo. Allora guarda, ve ne dico una, questo non sono balle perché lo faccio dire a mio fratello anche lui. Un po' di anni fa c'era una cosa importante, molto forte, fondo scala pieno. Mio fratello fuori dalla porta in macchina, bene, non riusciva a passare, la portante se lo mangiava. In direttiva stiamo parlando di un altro paio di maniche di gamma d'onda, stiamo parlando di un'altra cosa, quelle sono definiamole così, che sono, si chiamano in un'altra maniera, sono onde prepotenti quelle. Quelle sono onde prepotenti che si entrano direttamente a farla in breve e mezza rivoltarla in volo. Però per farti un esempio, provaci tu a entrare da lì anche con un kilowatt fra i due vicini che ho io qua, fra due vicini di antenne battate da che piglia via avanti. Provale a entrare su quelli e poi con un'altra mantova, però metti anche un kilowatt a vedere se riesci a entrare. Così è troppo vicino, ma devi contare che quelle si svelano, capito? Si baciano anche come attende. No, aspetta, quando mio fratello non riusciva a passare, quella era con la mantova, non era direttiva. Lui sotto casa con la macchina non riusciva a passare, proprio copriva, lo annientava tutto. Ma Lucaria, perché non si può modulare tanto senza antenna, però tra me e Antonio stacchiamo le due antenne senza antenna, 930, anzi sul TV pieno, anche senza antenna. Oh, papà, quando ti arriva Antonio di radio, cioè di radio, di segnale? Fondo scala, smatterago sino a fondo. Ma se sta con l'antenna è la stessa cosa. Vedi, attenuandolo. Attenuandolo, non attivano, tra me e lui non attivano niente. Ma sì, per cui l'acqua se avete gli attivo quanto passerà mai, capito? Sto pensando, dove c'è lì, allora non attivo, cazzo, lo fanno scala, minimo deve arrivare almeno 9 più 80, è impossibile. Tra la stanza sua e la mia, ci sono appena 8 metri, 9 metri fa, vai, non ci sono neanche, 8 metri forse leggero anche troppo. Cioè, è da superare una porta e basta. Ah, quindi sono, le due antenne sono nella stessa campanella allora? Sono nella stessa, medesimo palazzo, però sono una dietro l'altra, una da una parte e una dall'altra, capito? Però i due marachini sono, devi superare una porta e basta. Allora se c'è una cosa da 3 kW passerà mai, ma quindi è troppo vicino Luca, cazzo minimo, guarda quando sei così vicino minimo cazzo, se c'hai uno strumento che lo misura minimo c'è 9 più 80, 9 più 90, cazzo se fa una scala senza antenne, capito, deve mettere, è impossibile scalare, è troppo vicino gli antenne, anche se sono piccoline, però si può dire cazzo che gli apparecchi se non la stessa scala, non ce la farà mai, troppo vicino, secondo me. E tu conta che quando noi due stiamo parlando, uno dei due, adesso chi sta ascoltando ascolta anche frastuono, la riscaldo come d'Antonio, è ovvio, la digredi che venga con la percezione, non intendo per questo perché c'è troppa saturazione. Guarda, perché siete troppo vicini, quindi il segnale è proprio troppo e tende a saturare. E quindi sono segnali da paura, non per 80, non per 90, capito? Quindi per far vabbè. Vedi, sono vicini, sì, ma comunque. Ti ho già detto una cosa, che come sei tu per parti, forse mi hai fatto quella più vicino, proprio sotto casa le antenne si vedevano, senza esserci qualche ostacolo, eppure non riuscivo a passare, chissà perché. Ma la distanza con te era sempre, ma non era parte nella stessa casa, capito? Qua i baracchini si sentono senza antenna, e quella è la differenza, che tra me e lui ci separa una porta, capito? E quindi non è quella la distanza che è breve, capito? Non è in diversa casa, ecco. Magari se eravamo stati uno in un palazzo, uno nell'altro, allora provassi pure che da provare, non è che non è detto, ma per una legge di numeri non dovrebbe essere così. Comunque ripeto, Peppa, mio fratello era sotto casa, io non so dove abito io, l'antenna non era lì, era dove c'era l'antenna TV, c'era una via 27L, lui sotto casa, dove c'è il marciapiede, no? Fuori, sotto, sopra, cioè, non sotto marciapiede, la strada lì. Dove metto la moto io per andare più avanti, però la strada. Lui era con la, cioè, il 48, la PLC 1000. Stai dicendo che non riusciva a passare, quello là lo crepava. Stefano mi sentiva, perché io essendo a casa più potente mi sentiva, però io a lui non l'ho sentito. Comunque ti voglio fare una prova, guarda, adesso è troppo tardi, ma domani magari ti faccio sentire al telefono, ti chiamo al telefono, io stacco il piede da qua e ti faccio sentire come arriva Antonio, come che tu l'antenna ce l'abbia attaccata, cioè che non sia stata attaccata, io stacco il piede completamente proprio e lo tolgo, lo allontano pure, e ti faccio sentire, faccio modulazione, ti faccio sentire come arriva, come ti dico? L'antenna non l'ha staccata, cioè lo smetterà da fondo a casa, ma adesso. Non lo so, comunque, ma sai cosa è? Che mia madre mi ha attivato USA, è che lì non so con il kilowatt se ce la fa a farlo andare. Però deve staccare tutto, scaldabagno, frigo, cioè deve spegnere tutto. Allora può darsi pure ce la fa, a farlo andare con come deve andare. E che vabbè, comunque, è una prova, la si fa e via. E niente, tanto ciò perché c'erano proprio attaccati, cioè si vedevano le antenne, invece attuavo qua il tuo figlio, non si vedono, sono vicini sì, ma non si vedono. Anche tu c'hai ragione, non si vedono, però i baracchini sono talmente vicini che lo sto dicendo, si apre la porta, fischiano, se ti metti a modulare fischiano, capito? Io qua ho dovuto fare accorgimenti perché più freddo, cazzo, anche con le portate attaccate ci stiamo, figurati. Beh, vabbè, comunque, se dovesse capitare gli occhi da Claudio, la vorrei fare. Avanti, Antonio, e la prendi a biocco, Sabiocco. La gamba, io ho provato con quel portatile in testa, ho provato a metterlo fuori, da questa stanza ho fatto un po' di fondo, ho provato a modulare, sai come si approcciava? Oh yeah! Proprio facciamo ascolta, non fa la trucca, bisogna provare sostanza che lui, immaginiamoci cosa è. Pratica, se io apro la mia porta di dove sono adesso, con la mia stanza mi viene l'antenna di Antonio, viene in linea, capito? Viene in linea col mio baracchino, figurati. Le antenne non si vedono, però prendo la porta, cambia tutto, capito? Perché se gli stacchi, cazzo, diventano micidiale, apri la porta, poi sei buttito. Allora di nuovo di sentimetri. Da all'interno, interno no, noi parliamo da chi deve fare un giro dell'angolo del palazzo per le antenne, capito? Così, si sa che già le relazioni entrano attraverso la casa, ormai dopo fare un passaggio della casa va rifatta la bella. Ma appunto, cioè, sono troppo vicino, capito, anche se non si vedono le antenne, sono troppo vicine. E poi sono antenne piccole anche queste, sono un metro, è un tubo da un metro, sono piccolini. Nelle altre antenne in pratica c'è ostacoli, mentre invece fra noi due è un ostacolo di un giro, un giro di largo, lo è. Guarda, le due antenne sono distanti 4 metri, 9 metri, perché non quello il nome, non fa, cazzo, da antenna gira tutto il palazzo e torna anche da casa di Antonio. L'onda va a due stati, entra dentro casa, non è che, e quindi è ancora più vicino, e per me se non è impossibile che lui passi da tra voi due, nel mondo assoluto, capito? Perché lui è distante, cazzo, è che voi siete a 4 metri. Lui non passerà mai, ma questo è per 3 kW. Sì, ma io ti ho detto che sono 20 metri, per darti un'idea, che uno è una facciata di un palazzo e l'altra è l'altra facciata. È chiaro che passando all'interno, una è un balcone, una è l'altro. Se non mi usi la casa, la ghiarna di mezzo fa per angolo, le due antenne si vedono una fra una con l'altra. Se non ci fosse in pratica uno spigolo di muro che la divide, si vedrebbero pure, però si apre la porta, apre la porta a finestra, la porta della camera mia è fatta, si vedono le antenne in pratica. Sì, però sono due antenne verticali, l'anno di radiazione a 360 gradi, certo magari se c'è specchi, se c'è qualcosa, quello di flesso fa sì che magari gli onde entrano di meno dentro casa, però entra, il poco che entra da dentro la casa, matta e avvata, perché i baracchini sono a 3 metri dall'altro, e lui non passa mai con 3 kW in direttiva, e lui può giocare il cazzo, quello che vuoi, è impossibile, è troppo vicino, capito, 5 watt a 4 metri, siamo in fermità. L'importante è andare a conducare a un tessere. Quindi lui, in teoria, cazzo, se ti si con una scala, con una antenne, tra una cosa e l'altra, cazzo, ma sì, non faccio 80, non fa 80, anche di più. E lui con la cazzo di bale, no, cazzo, non esiste. Infatti, quello che sto dicendo, la distanza dei baracchini è troppo vicina, capito? Non c'è lontananza. Se fosse stato un altro palazzo, che ci dividi un palazzo, allora sì, ma se siamo in occhi, cioè attraverso una ghiarna, io apro la ghiarna e esco i baracchini e sono collegato a fare, come ti dice ai nonni, dai, è poca distanza, cioè come dici tu, togli la porta e c'è un baracchino da una parte e un baracchino dall'altra, ecco. Però questo prova è bello farlo, però sicuramente secondo me non passerà mai, però se capita si può anche fare, no? Per questa curiosità. È una curiosità che mi è venuta adesso, sarebbe interessante fare la prova a vedere che cosa succede. vedere se dall'altra parte c'è qualcuno che riuscirebbe a entrare così con tanti batte, sarebbe interessante da vedere, capito? Ma è una prova che sei d'accordo Claudio, ti chiederemo di fare a vedere se cosa succede, chiama su Fibuglioso. Infatti, guarda Luca, dammi un controllo per favore, di Santiago e di radio. Non è quasi dei no, perché il nome è per lo pieno, e questi appena appena, che il nome è 95, questo appena appena è rosso, così. Cavarocci, Luca, ci segui? Luca, la fa mangiare? Ma se non è così, a me non ci arriverà mai, è troppo, troppo, anche se... Cosa sarà l'antenna sua? Via d'aria, da 3, 4, 500 metri, forse anche di più. Da chi? Da la Claudia. Oh, la Claudia ci sarà un chilometro. Su chi la segna d'aria? Io espongo. Sembra così, ma un chilometro mi accetta. Tu capisci, no? Espongo. Infatti devi superare un chilometro di distanza. No, ma non è possibile, non ci sarà mai. Stavamo a vedere, se riusciamo a farlo questa prova la voglio vedere. Ma non è che non si metta tra te e lui, capito? In mezzo all'appartamento. Un casino sarebbe così, Capito, anche se c'è 4 metri, da 2 metri si muove, allora sì. E sai far lì cosa può, come puoi fare, come puoi passarli? Eccola. Come fare un risotto? Puoi passare tu, puoi passare. Ma anche quello è davvero, perché con 5 passi non ce la faccio neanche. Ma che lo metto sotto la catena, ma... Magari mi passi, no, lui ti vuole dire così, non ti metti sotto, e lo passi, Arturo lo passi, e ti sento io perché lo passi. Ma da me a lui invece non ci riusciresti. Infatti, cosa succede? Io ho detto mettermi sotto e passare uno di quei due, ma no, non lo so, questo sì. Se ti metti sotto proprio, sotto di me perché gli antenni si vedono, tu io passo a lui e tu passi a lui, perché si vedono gli antenne, quindi è abbastanza. E le forze non sta proprio, ma devi pulire sotto, altrimenti no. E già lo sai Antonio, che non riuscissi tu a passarmi, io passo a te, ma tu a me no. No, è lo stesso discorso, se lui si mette sotto proprio, è giustamente che passa, con un'antenna lunga, dai, faccio io e passa lui, però se si sposta per appena, poi non va più da nessuna parte. Ma tu e sei pulito. Ah, lo sai che non passano Martensi, lo sai. Non devi farmelo dire, adesso non devi insistere che non passi qua. E se la faccio? Era una corda, prego l'antenna e la butto giù, come l'ho fatta far corda. Ma ecco, già lo sai, dove passa con me questa cosa? Cioè, tra me e lui c'è una certa differenza. Anzi, una certa differenza, un bel. Sono tutto provato a farlo. Guarda, chiama, Luca. Luca ce l'ha domandato. Ma poi tu lo sai, Antonio, che la differenza di batti non di sotto campa, Senta, quando ti arrivo io di segnale? 7.50. Vedi, a lui arrivo 9.5. Lui gli arrivi 9.5 perché sei diretto lì, ma devo cambiare la posizione dell'antenna, vedi che ti arrivo più io e senz'altro mi arrivi più tu. Qua mi basterò mettere, adesso in questo momento non lo faccio, ma io ho la possibilità di sollevare l'antenna e non lo faccio adesso, no, ti vedi che mi arrivi di più. Sicuramente lui è più attento per me, capito? Perché se io 9.5 tu già lo sapevo 7.5, anche tu arrivi qua a 8, lui arriva a 9.5, cioè il caso allora anche la sua è più come ti posso dire, è più per la mia. E trova di più la tua vita. Allora, so, perché c'ho un mio amico qui vicino che c'è una 91, tutto cioè in vicinanza. Ma infatti, per spiegarti anche che tu da lì, la posizione che sei, se metti una verticale, avresti, cioè, è come che saresti qua, dai, ti, per farla andare, guarda, come minimo avresti avuto 9,20. Aspetta, voglio fare un provettino adesso. Guarda come adesso la ci ha avanzato altro il segnale. Passa dell'Italia, stai cercando proprio il 9,20, dice. Sì, 9,25, dai. Fateci lui, guarda che è tagliato quello di mister. Un pochettino vento per queste ore. Ci sentiamo tutte le prossime. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao. papà, ci sentiamo. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ciao Pauli, io rimango lì. Se continuate rimango in ascolto, se no pazienza. Buonanotte allora a tutti quanti, riprendo tutti. Papà, buonanotte. Vado là,